Bella estate, racconti dell'Italia in vacanza, di Fabrizio Intonti e Tommaso Labranca. Lo fanno tutti perché non dovremmo farlo noi oggi, parlare di Venezia. Stanno parlando tutti di questa mostra del cinema di Venezia, la 68esima mostra del cinema di Venezia, quindi oggi noi non ne parliamo, ovvero ne parleremo in maniera marginale. Noi ci occupiamo della bella estate, ci occupiamo di vacanze, di ferie, di momenti di relax o presunti tali, però so che ci sono tanti che prendono le ferie a settembre per andare a Venezia e seguire i film, e sono diciamo il 3%. Gli altri vanno a Venezia per vedere i divi, perché poi se ti arriva George Clooney e ti arriva Madonna, li vai a vedere lì e dici: ah, ho visto la Madonna e ho visto George Clooney, e quindi poi porterò la carezza di George Clooney ai bambini a casa, come diceva un antico pontefice che guarda caso era stato patriarca di Venezia prima di diventare pontefice, Giovanni XXIII. Quindi tutto torna. Venezia, non la luna e tu, ma la mostra e tu. Oggi parleremo di vacanze intelligenti, ossia quelle vacanze che fate per darvi un po' di cultura, musei, concerti, mostre, città d'arte e altre cose così simpatiche. Ma parleremo anche di quella zona che abbiamo un po' trascurato, il nord-est. Ecco perché abbiamo parlato di Romagna, abbiamo parlato di Salento, abbiamo parlato di tante zone, non abbiamo parlato del nord-est. Oggi quindi faremo una puntata tutta dedicata al nord-est, quindi Venezia, ma anche il Friuli, il Trentino l'abbiamo già toccato quando abbiamo parlato di montagne. Ma restiamo a Venezia. Allora, intanto 800 24 00 24 per raccontarmi delle vostre vacanze intelligenti. Avete visitato una mostra che vi ha sconvolto? Siete andati fino a Berlino per vedere un museo con tutti i musei che avete sotto casa? Oppure fino ad Amsterdam per vedere il museo Van Gogh? Ma ne parleremo dopo. Adesso restiamo a Venezia. In una delle tante reincarnazioni che hanno segnalato il corso, segnato il corso della mia vita, c'è stato anche un anno, il 2000, in cui sono andato a lavorare al festival, alla mostra anzi del cinema, non si chiama festival, si chiama Mostra del Cinema di Venezia, e facevo un programmino per un canale satellitare che adesso non c'è più, si chiamava Telepiù. Ebbene, in questa occasione ho incontrato una contessa o presunta tale che mi aveva raccontato questo. Ai tempi d'oro della mostra del cinema, quando ci andava, Visconti arrivava col suo codazzo di seguaci, i quali si chiamavano i settembrini, perché arrivavano a Venezia a settembre, e la caratteristica di questi settembrini era questa: dovevano avere la bronzatura tale da rendere indistinguibile la pelle loro dalla pelle dei sandali che portavano, cioè il cuoio dei sandali doveva avere la stessa tonalità di cottura, diciamo, della loro pelle. E questa non era che una delle tante esibizioni folcloristiche che trovate in tutte queste grandi manifestazioni. Che voi andiate a Sanremo o ai mondiali di calcio o a Venezia, trovate sempre e ovunque questi, posso dirlo, pagliacci che vanno lì per farsi vedere. Tanto Clooney, come abbiamo sentito anche già nei notiziari, stasera alla festa andrà un minuto e tornerà a casa. Bene, basta parlare di Venezia, ne parleremo ancora, ma basta parlare di Venezia. Parliamo di Londra. Non c'entra niente Londra, sì c'entra, perché a Londra nacque un movimento musicale qualche anno fa che è stato fondamentale per quello che sta succedendo oggi. Dai, come punk è un po' l'acqua di rose, però è stato un po' l'inizio, quello che ha dato il modo a tutti di parlare del punk. Qual era la prima regola del punk? Anche tu puoi fare arte, prendi una chitarra, fai rumore e hai fatto arte. Puoi fare musica, puoi fare pittura, puoi scrivere, puoi fare qualunque cosa, perché tu puoi farlo. Bene, l'hanno preso in parola questo diktat, e su YouTube trovate delle cose terrificanti, perché non solo trovate i vecchi programmi televisivi, che sono il motivo per cui ci interessa andare su YouTube, ma trovate anche i tutorial del trucco. Mi piacerebbe parlarvi a lungo di quelli che si mettono lì a truccarsi facendo vedere come ci si trucca. Invece no, oggi parliamo di un tipo che ho trovato che è stato a Parigi e ha tenuto, quindi sentito il bisogno di raccontarlo a tutti gli amici. Sentiamo queste tre clip una dopo l'altra commentandole di questo ragazzo anche abbastanza tempato forse, che decide di andare a Parigi al Museo d'Orsay. Allora ragazzi, oggi praticamente ci sposteremo, oggi andremo a visitare il Museo d'Orsay, quindi però prima di andare a visitare, siccome è una bellissima giornata e mi sento vincente, a più tardi vi farò vedere la mia faccia, le mie espressioni di vittoria, perché ieri si giocava l'Euro Million e si vincevano 65 milioni di euro e questi sono qua, Poi dopo andremo a visitare il Museo d'Orsay. Ecco, dopo, prima c'era il Super Enalotto francese, lui sperava di vincere, però purtroppo mi sa che non ha vinto, anzi ve lo dico subito, non ha vinto. Il museo si chiama Museo d'Orsay e non d'Orsay, come continua a dire lui. Bene, questa è stata la mattinata, lui ha detto partirò e andrò a vedere il Museo d'Orsay o d'Orsay. Poi è partito effettivamente. In questo momento ci troviamo a Place de la Concorde, che vi ho fatto vedere all'incirca un mese fa in occasione della festa del 14 luglio, quindi precisamente è più di un mese fa, per qualche giorno è più di un mese fa. Da qua, come vedete, si vede questa straordinaria Torre Eiffel, l'obelisco egiziano, e guardate là poi, non so se la riuscite a vedere, ma comunque si vede anche la luna. Allora ragazzi, adesso quindi andiamo a visitare il Museo d'Orsay, che non mi ricordo, sta qua o se sta là, se sta a destra o sta a sinistra. Ok, allora niente, a più tardi su Telegarage. Lo troverà, non lo troverà nel Museo d'Orsay, non si sa. Quello che colpisce è che è a Parigi da più di un mese questo signore e non ha ancora imparato che si chiama Museo d'Orsay. Va bene, poi parli di te, perché i francesi ci odiano? Beh, se gli mandiamo simili campioni. Finalmente comunque il nostro eroe arriva al Museo d'Orsay. Siamo arrivati quindi al cosiddetto Museo d'Orsay. Dovete sapere che prima il museo era una metropolitana e poi quindi è stato tolta la metropolitana ed è stato fatto il museo. Allora, volevo dire un'altra cosa, io sono sceso a Place de la Concorde, che si trova laggiù, però quello è il museo di Louvre, quello che vedete davanti a voi, voilà, vedete? Ah, quello è il museo di Louvre, questo è il museo d'Orsay, quindi sono anche vicino da visitare, e là è la biglietteria e andremo a fare il nostro biglietto. A più tardi su Telegarage. Telegarage, allora il canale di questo signore su YouTube si chiamava Telegarage, è arrivato al Museo d'Orsay, però purtroppo non posso farvi sentire altro perché l'hanno bloccato, non gli hanno fatto fare nessuna ripresa all'interno, lui ha scritto che ha anche litigato, ma evidentemente poi l'hanno cacciato via. Tengo a precisare che il Museo d'Orsay non è in una stazione della metropolitana, ma in una vecchia stazione ferroviaria, la famosa Gare d'Orsay. Poi Gaia Aulenti lo ristrutturò verso il 1986. Dopo avremo un ospite che forse mi correggerà, lui ne sa molte più di me. C'è un altro personaggio che si occupa d'arte, che forse è anche colpa sua se poi gli italiani hanno voglia di farsi le vacanze intelligenti nelle città d'arte. Loro ci vanno e lui cosa dice? Invece di dire grazie dice questo, che io poi, questo è un commento che condivido pienamente. Capra, capra, capra, capra, capra, capra, capra. Capra, inutile dire chi è questo signore che grida capra. Luca, pronto? Pronto? Buongiorno. Ciao, buongiorno Luca Beatrice, critico d'arte, curatore d'arte, è stato anche una delle colonne della Biennale di Venezia. E oggi dove ti trovi? Giusto appunto a Venezia. Ma guarda caso. Con quel colore lì del più o meno del sandalo, ecco, adesso all'incirca. Ah, ti sei abbronzato anche tu come i settembrini di Visconti, perfettamente. Assolutamente, non potevo mancare in questa kermesse con una sana dose di esibizionismo tutto italiota, per cui direi che non metterò i sandali perché ovviamente non si addice la scarpa aperta, insomma, ad un'occasione del genere, però il colore è quello. Sì. Senti Luca, non so se tu hai sentito le disavventure del ragazzo al Museo d'Orsay, come lo chiamava lui. Museo d'Orsay, sì, un bellissimo posto che è a Parigi, giusto appunto. Infatti, però lui non lo trovava, poi l'ha trovato. No. Ecco. Cosa ne pensi tu, da uomo che lavora con l'arte tutti i giorni, di questa follia delle vacanze nelle città d'arte? Ma io già credo che le vacanze in qualche modo siano una follia, perché uno dopo 2 o 3 giorni potrebbe tranquillamente tornare a lavorare, così ci sarebbe più agio per tutti. Detto questo, la follia delle follie non sono le vacanze intelligenti nei musei o nelle città d'arte, perché queste rappresentano una specie di catering culturale più che di cultura, no? Sì. Ecco, sì, un catering culturale che viene dato ad un pubblico che non sa minimamente neanche quanto possa essere grande la Gioconda, o qualcuno ha detto loro che sta al Louvre, ma potrebbe essere anche il Museo d'Orsay, e si mette così pazientemente in fila quando ci sono degli ottimi libri che un tempo si chiamavano i maestri del colore, i giganti della pittura, con cui poter vedere i quadri o le opere, insomma, molto più da vicino, senza il disturbo del giapponese o del ciccione di turno che magari sta anche mangiando un panino, facendo dei rumorosi così suoni. Infatti io a casa ho tutti i maestri del colore, i primi 200 numeri, guarda un po', bravo, vado lì e mi riguardo, e ho anche tutta la collezione di FMR, quella vecchia proprio. Sono... Vedi, allora che bisogno c'è di andare? Ma io non ci vado. Oh, meno male. Io non ci vado, me ne guardo bene, figurati. Ma bravo, certo. Senti, però... No, voglio dire, oltre alla mostra del cinema, a Venezia è tuttora in corso la Biennale Arte, no? Che durerà fino al 27 novembre. Sì, oggi fa un caldo terribile a Venezia, per cui insomma penso che, non so, ecco, ma credo che il pubblico anche lì ci vada. È un po' diverso il discorso della Biennale rispetto ai musei, perché se la Biennale è una grande kermesse, se tu non ci sei stato fai effettivamente un po' la figura del pirla, no? Sì. E devi poter parlare anche col tuo vicino di casa, dal parrucchiere, o insomma quando vai con gli amici, eccetera. Non essere stati alla Biennale di Venezia non è... si può rimandare, diciamo, la visita al Museo d'Orsay, ma invece la Biennale di Venezia è un appuntamento mondano chic, dove tra l'altro le opere, essendo di solito molto molto più grandi, si possono vedere in qualche modo, anche se c'è il ciccione, oppure ci sono questi giapponesi che fotografano spesso gli estintori, non sapendo che quelli sono lì anche quando la Biennale c'è. Ma sai, purtroppo, come si dice, l'arte moderna, non dicono contemporanea, dicono moderna, l'arte moderna io non la capisco, e allora fotografo tutto, capisci? Certo. Senti, tu sei stato contattato da Vittorio Sgarbi, che cura il Padiglione Italia, e hai segnalato un artista che si chiama Mirko Marchelli. Esattamente. Come mai Mirko Marchelli? Ma è molto semplice, mancavano 2 giorni all'inaugurazione del Padiglione Italia e Vittorio mi chiama, anzi ci vediamo a Venezia per fare una specie di così sopralluogo al padiglione per scrivere un pezzo in anteprima sul giornale, e mi dice: ma Marchelli dov'è? E io ho detto: ma Marchelli penso sia a Ovada, nel suo paesino, così nel basso Piemonte, quasi al confine con la Liguria. Fa: perché non è a Venezia? Perché non l'ha invitato Vittorio? Chiamalo subito. Quindi io ho chiamato il buon Marchelli, che dal sabato alla domenica è arrivato con la sua macchinina, parcheggiato a Piazzale Roma, e si è portato il quadro, che poi è arrivato a Venezia col motoscafo. Hai detto una parola magica, hai detto quadro, quindi sono quadri. Sì, è assolutamente un quadro quadrato, anzi forse rettangolare, a pensarci bene, con cui appunto il buon Marchelli fa la sua figura in mezzo a altri 265 artisti in quel grande casino. Però d'altra parte Vittorio ha voluto, diciamo, fare questo tipo di repertorio dell'esistente dell'arte italiana, e io devo dire che in fondo ci si è anche un po' divertiti, ecco. Beh, quello è importante. Senti, ti ringrazio tantissimo, perché veramente hai detto quello che volevo sentirmi dire. Guarda, state a casa a guardare i vecchi fascicoli dei maestri del colore. Assolutamente, mi ricordo c'erano anche i giganti della pittura, volendo, che erano quelli rilegati. Questi sono i surrogati migliori di qualsiasi museo del mondo. Non andate a fare le code quando c'è tutta questa gente, e soprattutto quando fa così caldo, tanto non capirete niente. Ecco, bravo, bravo, grazie. Grazie Luca, buona grazie permanenza a te. Venezia. A presto. Ciao, ciao. E a proposito di Venezia, ti regalo questa colonna sonora tipicamente veneziana. Quanto sono cialtrone, parlo di Venezia e metto il rondò veneziano, proprio peggio di così non so cosa si potrebbe fare, ma non lo so, mettere la gondola sul televisore, quella di plastica. C'è un ascoltatore, Ettore da Torino, pronto Ettore? Sì, buongiorno. Buongiorno. Mi sente? Perfettamente. Sono in macchina. Sì, ma senta, ti sento. Io ero favorevole alle vacanze deficienti, intelligenti. Sì. No? non ho il copyright di questa roba qua, eh. Sono andato a Torino adesso a recuperare mio figlio, aiutarlo a traslocare. E comunque, allora ero su queste cattedrali nuove che sono le tangenziali, e Vittorio Zucconi, tempo fa, ha fatto questo articoletto carino, no? Sì. Mi diceva, ma che bello quando c'erano le vacanze dove non si faceva nulla, no? Erano le vacanze non intelligenti, perché effettivamente la vacanza, se la prosecuzione del lavoro sotto altre forme, no? Parafrasando, no? Certo, no, ma sì, no, ti sento, hai ragione. No, allora dico, ma chi me lo fa fare, no? Ma lascia perdere, capito? Perché io non devo organizzarmi a tutti i costi, devo vedere, devo organizzarmi, e poi la bicicletta, e poi devo andare da A a B a C a D, se no mi sento. Sì, e poi ci sono anche, poi Ettore, ci sono anche altre cose, non puoi mangiare la carne, non puoi mangiare le uova, devi essere vegano. È un lavoro. Esatto, se diventa un lavoro non è più divertente. Allora io pensavo, e chiudo per non rubare tempo a altri, che se io voglio solo uno spicchio di sole, sì, uno spicchio di mare, un libro e guardare l'orizzonte, no? E riposarmi senza fare assolutamente niente. Purtroppo, no? Tu sei più raro dei panda, perché ormai quando partono per le vacanze partono come se andassero in guerra, capisci? Agguerriti loro stessi, perché devono acculturarsi. Io non lo so. Comunque, grazie a Ettore. Adesso c'è una serie di clip fondamentali, che so che voi la state aspettando, perché non possono mancare i famosi fruttaroli che vengono mandati dai figli a fare le vacanze intelligenti. Prima tappa, le tombe etrusche. Ma questi etruschi chi erano? Ma ha spiegato Romolina, adesso non mi ricordo proprio bene che ha detto. Che ha detto? Ha detto che sono popoli antichissimi, che adesso non ci sono più, sono tutti morti, si chiamavano etruschi, poi però si sono infiltrati i ciociari. Chi? Insomma, i laziali, ecco. Hanno cominciato a fare caciotte, pecorino, mozzarella, salsiccia. Poi sono arrivati a Roma, hanno aperto l'osteria e trattorie. Ecco perché i romani sono tutti piccoli e tarchiati, e qua la razza lì. Allora io sono etrusca. Ammazza con te, vedi, tu sei proprio etrusca. È proprio etrusca, scusate, l'ascolto mi ha sconvolto. È proprio etrusca Anna Longhi, che fra l'altro è scomparsa da poco anche. Cosa succede dopo? I figli avevano preparato, come diceva Ettore, il nostro ascoltatore, proprio un elenco di cose da fare, bisogna per forza farle. E allora la tappa successiva era la Biennale di Venezia, la Biennale d'Arte di cui abbiamo parlato poco fa con Luca e Beatrice. Arrivano i fruttaroli proietti alla Biennale di Venezia. Guarda, B78, che vuol dire? Buona. Una costruzione di 8 metri per 8 per 1,20 in cemento. La scultura gigantesca di staccioli sottrae la consueta istituzionale visione della laguna di Venezia per fornirne poi, subito dopo il sorpasso. Ma che dice quello? Diversa che dice? Spiega. Non è più suggestivo. Spiega. Nell'erigerla. Le cose che noi non potremmo capire. Che è buona mela, re? No, non fa ste cose. E non se fanno riconoscere a tutti. Ma che so? Sono in budini, vedi? Pure io li metto così quando spiccia la cucina. Sì. Ma che cazzo c'entra la cucina? Agu, è una scultura questa. Stiamo alla Biennale. Pure lei mette così. Siamo alla Biennale. Siete stati alla Biennale di Venezia? 800 24 00 24 per raccontarmi le vostre esperienze di incontri artistici, però rigorosamente in vacanza, mi raccomando. E poi c'è il momento clou, il momento quello della sedia, il momento in cui Anna Longhi si siede per riposarsi, e cosa succede? Questo. Guarda che bella sedia, oh. Metta la sedia qui, ci vado io a piatta qualche cosa da bere. È da ragnare. E come no? Pia qualche pagnotella, una birretta fresca, quello che trovi, re. Sì, sì, quello che c'hanno, Pio. Tu sta qua, non te muove, E dove vado? Stai bene? Sì, re, fa un bel freschetto. Brava, ritorno subito io. Un tratteggio multiforme. Guarda. Alla, sedia con corpo adagiato. Un'opera vivente? Un'opera originale, cara. Io sui 18 milioni la comprerei. A me mi sembra bello. Vedi quel corpo? Sembra una sfera che prima si sprofonda verso il basso e poi si innalza piano piano come sospinta dal vento che muove la palla. Agù, qui alla Biennale c'erano niente a magna, c'erano solo sti barattoli. Vedi, è fresco. E porca mignotta! Beh, abbiamo ma chi sono questi? Chi? Che stanno a fotografare? Chi? Questa è la mia signora. Che fotografate? Ma non glielo potevi dire tu? E che gli dovevo dire? Che non sei una statua. Che è mica la donna nuda questa. Are, me lo compro per 18 milioni. 18 milioni? Beh. Mazzo, ma non è troppo. Ecco, rieccoci qui, sentite l'odore della laguna, poi odore, diciamolo francamente, non è così buono l'odore che gira in laguna. Bene, volevano comprarla per 18 milioni, naturalmente c'era un riferimento a un'opera che era uscita qualche anno prima, era stata presentata in Biennale qualche anno prima di Gino De Dominici, di questo handicappato seduto su una sedia ed esposto al pubblico, quindi c'era, non tutto il pubblico l'aveva capita questa cosa. Ho al telefono, proprio dal nord-est, uno scrittore, Federico Nanut. Pronto, Federico? Ciao Tommaso. Ciao, sei stato in Biennale? Sì, una volta sono andato anch'io alla Biennale. Solo una volta? Solo una volta, sì. Ma sai cosa direbbe, Sgarbi di te? Capra! Capra, vergognati, capra. Devi andarci tutti gli anni. Magari... Senti, ci tornerai. Certo. Allora, perché ti ho chiamato? Perché oggi ho detto parliamo un po' del nord-est anche. Tu hai scritto un libro, In Africa saremo già morti, che è ambientato dove? Non in Africa, ma nel nord-est. Ecco, infatti, nel nord-est. Com'è il mondo estivo nel nord-est? Ma il mondo estivo è molto tranquillo. Ci sono un paio di località balneari che sono abbastanza conosciute, come il Grado Lignano, per un turismo fondamentalmente per famiglie. Poi c'è un po' di montagna, ma non va molto, ecco. Come, la montagna non va molto? Cioè... No, la montagna è un po' depressa, ecco, non ce l'abbiano come i miei corregionali, però non sono quelle località da VIP o comunque che attirano i milanesi, ecco, senza... Ma non siamo VIP qua a Milano, forse perché è troppo lontano? No, ma qua sai, Milano è considerato un po', no, la capitale dell'economia, quello che ovviamente anche è, ma insomma è il simbolo un po' del benessere, mentre noi siamo una zona un po' sfigata. Ma dai, non buttarti giù così. Senti, ma a Legnano, quindi ci arrivano le famiglie, ma non c'è un minimo di trasgressione, qualunque cosa? Cioè... Poca. C'era un po' negli anni Ottanta, forse qualche discoteca, adesso, a parte che io comunque sono un po' invecchiato e fuori dal giro, ma mi sa che si è tranquillizzato tutto anche lì, sì. Ma nel tuo libro a un certo punto si va oltre Cortina, sì. La vecchia Cortina, non da un pezzo, la Cortina di ferro, perché vanno a Međugorje, cioè c'è una veggente. Sì. Dillo. C'è questo viaggio attraverso i Balcani che insomma per noi è una terra abbastanza vicina, non solo geograficamente, perché comunque qua è tutto un polpettone di genti di varie etnie, e questi protagonisti si spingono in quella che era la ex Jugoslavia, per dei traffici, insomma, così di piccolo cabotaggio, e hanno varie avventure. Esatto. Federico, resta sempre lì in linea, perché adesso, sì. Visto che, come hai detto tu, qui siamo a Milano, nella capitale dell'economia, devo lanciare la borsa. La bella estate. Are, qui non c'è un cazzo da vedere. No, qua no. Andiamo a vederla. Ma che cos'è? Che cos'è? È un... Ma sono chiari da sole? Sì, sono chiari da sole. E beh, che vuol dire? Che vuol dire? Agu, non mi domanda tutto a me. No, ma... Mi piacerebbe cantare una canzone intelligente che segua un filo logico importante e che sia piena di bei ragionamenti. Insomma, una canzone intelligente che spieghi un po' di tutto e un po' di niente. Una canzone intelligente per una vacanza intelligente, stiamo parlando di vacanze intelligenti, passate a soffrire forse anche tra mostre, concerti e altro, però c'è anche chi non ha sofferto, per esempio c'è Paolo da Firenze. Pronto Paolo? Pronto, signor Labranca, buonasera. Oh, buonasera, grazie del signore, quindi dovrò chiamarla signor Paolo da Firenze. No. Stavo solo giocando. E no, io sono stato alla Biennale, tra l'altro vorrei anche tornarci. Ci sono stato circa 4-5 anni fa. E com'è andata? Ma benissimo, a parte, tra l'altro, Venezia è sempre piacevolissima, per cui già quello, la cornice era... Ah, erano, quindi tutti i veneziani erano andati via. Chiedo scusa ai veneziani, ma ho avuto dei problemi. No, prego. No, no, semplicemente questo. Devo dire che la Biennale, come sai benissimo, è suddivisa fra i padiglioni laggiù dove c'è tutta la varie mostre, e poi è un po' di, come dire, spianata, dislocata nei vari, in vari location per Venezia. Ecco, esatto. Devo dire, le location intorno, devo dire, probabilmente perché c'era delle installazioni particolarmente anche divertenti, interattive, con le quali, diciamo, potevamo giocare, tra virgolette, e poi a volte suggestive anche come cornice nei palazzi, eccetera. Quindi sotto questo aspetto molto divertente, piacevole, preso così, senza cercare di fare l'intellettuale che capisce il messaggio dietro all'opera d'arte, eccetera, semplicemente godendo di quello che è. Ma i messaggi dell'opera, quella è una mitologia, quella del messaggio nell'opera d'arte. Un'opera d'arte, se ha qualcosa da dire, condivido, te la dice subito. Non devi andare a capire dietro cosa c'è, quello è un modo perché i critici possano vivere, devono vivere anche loro, e allora scrivono qualcosa che l'artista non ha mai pensato. Questa è la mia opinione, ma so che è condivisa anche da altri. Comunque, ma io tra l'altro mi ricordo il mio professore di figura all'Accademia, mi diceva sempre, dice, ma te quando ti compri una camicia, che guardi che messaggio c'è dietro, guardi la fantasia, se ti piace o meno prima di tutto, se, ora facendo, estremizzando molto il messaggio. Per cui semplicemente io dico questo quando mi dicono, ah, ma non capisco, ti piace, non ti piace, primo. Ti poi stimola, dopo, ti dà qualche... Fai la sua storia, esatto, se ti interessa, esatto, leggi, prendi i testi e cerchi di capire anche. Ma se no, purtroppo, siamo più leggeri. Ecco. No, Paolo, purtroppo nella vacanza intelligente è compresa anche la sofferenza, e quindi anche la sofferenza intellettuale. Sentiamo Federico Nanut, lo scrittore che è rimasto con noi comunque in linea. Federico, ci sei ancora? Sì. Certo. Nonostante tutto sei ancora lì. Beh, anche tu quando vedi un'opera d'arte che non capisci soffri? Ma no, perché io non capisco nessuna opera d'arte, quindi... Ah, ma sai cosa direbbe Sgarbi di te? Caprone. No, capra. Direbbe... Capra. Capra. Vergognati, capra. Non capisci capra. Nessuna opera d'arte. No, quindi mi elimino il problema alla radice. Senti, ma qual è l'opera d'arte che hai mai sofferto di sindrome di Stendhal? Sai, voi scrittori siete sempre così sensibili. Sindrome della Standa? Stendhal, non Standa, la Standa non c'è più da tanti anni. Sì, era una battuta. No, non l'ho mai. No, per i tuoi libri, ecco, tutto la sindrome del Marte. Non suonare il violino, non suonare il violino. Hai mai visto un quadro che so di Modigliani sei svenuto? No. No. Vabbè, comunque è una persona ancora seria, è una persona ancora sana. Senti, grazie Federico anche per essere rimasto con noi in attesa. Intanto hai sentito anche la borsa, hai quotato un po' le tue azioni. Certo, a presto. Ho fatto trading online nel frattempo. Bravo, ciao Federico, grazie. Grazie, ciao da te. Ciao, ciao. Allora, c'è un artista che prima erano due, adesso è diventato uno. Si chiama Coniglio Viola, sono di Torino. Anzi, è di Torino perché adesso è diventato uno e si è anche preso così il piacere di farsi chiamare Capitano Coniglio, Coniglio Capitano, io lo chiamo Brice o anche Brice, insomma 2000 nomi. È al telefono con noi e ci parlerà delle sue cose che ha fatto anche lui a Venezia. Sentiamo se c'è. Pronto, pronto Brice, ci sei? Pronto? Ciao Tommaso, come stai? No, io sto benissimo, ma oggi stiamo parlando di Venezia, di mostre, di vacanze diciamo intelligenti, sai, quelli che vanno all'assalto delle città d'arte. Ecco, adesso c'è in corso l'assalto, così dicono i TG, città sì, d'arte prese d'assalto. Tu hai io mai fatto? No, io mai. Però tu hai fatto un altro tipo di assalto e ti ho chiamato per questo, perché tu hai assaltato la Biennale di Venezia. Sì, è vero, l'ho fatto quando ero giovane, in gioventù. Nel 2007, dai, non è mica tanto tempo fa. È vero, è vero. Dai, racconta cosa è successo nel 2007 e poi parliamo di quello che è successo quest'anno. Beh, nel 2007 Coniglio Viola ha attaccato la Biennale con un enorme coniglio pirata, gonfiabile, che faceva il verso al Leone di San Marco, un coniglio che poi ha attraversato tutto il canale della Giudecca per arrivare fino ai Giardini, e qui esplodere 52 colpi di cannone proprio sulla sede biennale, una per ogni edizione, insomma un colpo di cannone per ogni edizione della Biennale passata. E questo era accaduto nel 2007, quando effettivamente eravamo un po' di enfant terrible dell'arte italiana, ed era un'operazione che ovviamente aveva molti risvolti simbolici, anche un'idea di guardare all'alterità, no? Rappresentato dal mare, una sorta di messaggio per il mondo dell'arte, di scossone, ecco, voleva essere. Ma la Biennale, la Biennale ha risposto ai vostri colpi? Si è difesa in qualche modo? La Biennale no, non credo si sia difesa, è rimasta inerme. Ferma lì, ha detto, per carità. E quest'anno invece cosa è successo? Avete aperto un campeggio addirittura, andando contro le regole. Ma sì, questo è cioè il divieto storico nella città di Venezia di campeggio. Allora mi sembrava interessante invece creare una piattaforma per giovani artisti. In realtà poi quello di quest'anno era un progetto di residenza per offrire ai giovani artisti la possibilità di soggiornare gratuitamente in occasione di questi grandi eventi dell'arte contemporanea, a partire dalla Biennale di Venezia, ma poi il progetto è quello di spostarci con altre grandi manifestazioni. Però Venezia doveva essere, proprio per il fatto del divieto di campeggio, il punto di partenza. Allora ecco, quest'anno è nato il progetto Pirate Camp, quindi un campeggio pirata, che dal punto di vista appunto simbolico voleva essere una via di mezzo, una terra di mezzo tra la terraferma, che rappresenta il sistema, e il mare dei pirati. Quindi sicuramente è una operazione che si colloca sulla falsa riga dell'operazione precedente, però è una sorta di sbarco, ecco, sulla terraferma, ricorrendo però a un'architettura volatile e leggera come quella del campeggio. Senti, ma se alla prossima biennale, la 55esima, Coniglio Viola fosse invitato ufficialmente, come risponderebbe? Assolutamente in maniera positiva. Questo stesso progetto non era un progetto agonistico, ecco, non si poneva in contrapposizione con il sistema, anzi era un evento assolutamente in qualche modo che viveva proprio a latere dell'evento principale, quindi anzi offriva l'opportunità a dei giovani di soggiornare gratuitamente, quindi anche di approfittare di ciò che la biennale, con tutte le sue prolificazioni anche maligne, comporta. Allora, alla fine dobbiamo dirlo, il Coniglio Viola è buono. Ma questo mi sembra un po' azzardato. Perché? Dai, offre spazi, tende di campeggio, dai, un po' buono lo è, molto in fondo, molto in fondo. Forse molto in fondo, sì, lo è. Va bene, allora senti, Brice, che sarebbe poi il nome di Capitan Coniglio, l'ho svelato. Grazie per essere stato con noi, mi raccomando, non andare all'assalto di Città d'Arte. No, non sia mai. Guarda, tengo bene. La larga ormai. Stai a casa, ciao, grazie. Ciao. Like to take a semantic, biggest standing cinema. Dress my friends up just for show, see them as they really are. But the people in my brain, two new pens to have a go. I'd like to be a gallery, put you all inside my show. Beh, ormai dovreste sapere, no, forse non ve l'ho mai detto, ma non è una cosa fondamentale. A me piace molto Andy Warhol, ecco perché poi adesso sentivamo anche David Bowie, chiusura di questa intervista a Coniglio Viola, che cantava appunto Andy Warhol. Io non è che sia contro le città d'arte, però capite, ci sono delle cose che vanno anche rispettate. C'è un posto a Berlino che si chiama il Holocaust Mahnmal, non so come si dica in italiano, il monumento dell'Olocausto. Ci sono 2700 steli di cemento, un posto tristissimo che ricorda l'Olocausto degli ebrei nella Seconda Guerra Mondiale. Cosa fanno i turisti quando lo vanno a visitare? Si nascondono dietro le stele, poi pum, spuntano e fanno cucù, si riprendono e si mettono su YouTube, che io li prenderei e li attaccherei lì. Va bene, no, devo calmarmi perché sennò poi mi arrabbio e poi di queste cose parlo, ne riparlo, calmiamoci, facciamoci ancora due risate, perché siamo arrivati alla fine della trasmissione di oggi ed è arrivata anche la fine della vacanza intelligente dei coniugi Proietti, i fruttaroli romani. Sono tornati a casa, hanno ritrovato il loro ambiente ai mercati generali della capitale e di lì cosa hanno fatto? Hanno... sentiamolo. Quest'anno che non avevo visto per niente a Olbia. In agosto quest'anno abbiamo fatto delle vacanze intelligenti. E che dici? Ed è? E come che è? Concerti, biennale, musei, opere d'arte. Tu non mi puoi capire. Sei troppo ignorante. Ma li contacci tua, se l'ha capito te lo posso capire pure. No, ne, tu non lo puoi capire. Ma perché? Ma perché non ho capito manco io. Ma li portacci tua, ma che sono la paura, mi credevo che eri diventato l'occhio anziano per te. Sta tranquillo, dottore. Che se al mondo diventassimo tutti scienziati. Le casse, i piani mercati, chi scarica più? Comunque una volta ci siamo provati. Ci provo pure io. Ciao, siamo ritornati da Augusta. Chiere cappuccino. Da qua. Are. Ci ha messo il mistrato. Sì, ci ha messo. Volevano comprare 18 milioni. Beh, erano 30 anni che c'era questa opera d'arte, mica me ne racconto. Ma se danno 18 milioni a lei, a me quanto mi devono dare? A te pure un miliardo, solo come te trasportano a te. A rimortarci su, a me sto collo che mi frega. Ma st'altro anno le faccio pure io. Le voglio anche tu. Intelligenti. Poi ce la spieghi. Arrivi. Hai caricato tutto? Sì, ho fatto tutto. Andiamo! Agu, monta! Arrivederci a tutti, fate tutti le ragazze intelligenti! No, no, no, non andate a fare le vacanze intelligenti, basta, le vacanze sono finite, oggi è il 31 agosto, domani 1 settembre si ricomincia, domani comincia l'anno, tant'è che domani il tema della trasmissione sarà i buoni propositi per l'anno nuovo. Cominciate a segnare le cose che volete fare per il nuovo anno, quello che nasce adesso praticamente, perché a gennaio in realtà è una presa in giro, già le agende cominciano da settembre ormai. Domani quindi parleremo di questo. Venerdì, vi ricordo, venerdì è l'ultima puntata, sarà una puntata naturalmente speciale della bella estate, però non posso anticiparvi nulla. Voglio soltanto ringraziare, in regia oggi avevo Carmelo Lauricella, invece in redazione Laura Vanossi. Domani, mi raccomando, fate l'elenco stanotte dei buoni propositi e poi domani ne parliamo. A domani, ciao!